Terra in vista. L'Italia spiegata a mio figlio. Che bello! Terra in vista. Io sono Federico Tadia, al mio fianco, anche in questa estate insieme, il filosofo della scienza Telmo Pievani. Ciao Telmo! Ciao, bentornato! Un altro viaggio da fare insieme. Si riparte. Si riparte, e quello di quest'anno è veramente un viaggio fisico. Vi abbiamo spiegato l'Expo, le Olimpiadi, l'attualità. Quest'estate invece abbiamo scelto di raccontarvi, spiegarvi l'Italia. Il nostro paese, il paese più diverso, biodiverso di tutti. E ci metteremo degli occhiali, no? In ogni puntata. Abbiamo scelto come sempre 9 temi che ci daranno il punto di vista sul nostro paese. Sarà un viaggio geografico, culturale, storico, tante curiosità, tante notizie. Oggi, per esempio, partiamo da montagna, che comunque è un elemento che caratterizza il nostro paese. Sì. Però, come sempre, prima delle nostre parole ci sono le vostre parole. Abbiamo chiesto a dei bambini e a delle bambine di dirci che cos'è una montagna. Una montagna è qualcosa formato quando c'è troppa terra. D'estate o d'autunno verde o marrone, mentre d'inverno è bianca. Una montagna è un accumulo molto grande di terra su cui crescono alberi, vegetazione, e nei punti più alti può nevicare e si possono trovare dei cicci. D'inverno spesso c'è la neve, il ghiaccio, i ghiacciai, cioè mentre d'estate si scioglie. Le discese, cioè le discese si fatica anche perché comunque devi frenare un po' le gambe perché sennò dovresti correre, però secondo me sono meno faticose delle salite. È una roba triangolare, piena di neve, è fatta, se sei in campagna, dall'erba o dalle rocce, e di solito è alta. Ecco le montagne viste dai nostri giovanissimi ascoltatori. È una roba rettangolare, in effetti è innegabile. Triangolare. Sì, stavo pensando. Che di solito va in alto, sì. Sì. Poi è bianca d'inverno, colori diversi, verde d'estate. Insomma, la definizione di questo accumulo di terra, detto anche montagna, mi pare ben chiara nei nostri ragazzi. Cosa rappresenta la montagna per il nostro paese, Telmo? Ma insomma, secondo questi ragazzi è un po' un accumulo, quindi come qualcosa che si stratifica sempre di più e diventa sempre più alto, il che un po' è vero, anche se in realtà le montagne italiane vengono fuori perché c'è una grande spinta dal basso. E questa prima chiave di lettura, secondo me, ci dice già qualcosa sulla unicità del nostro paese, perché dobbiamo tenere presente che l'Italia è qualcosa di unico in tutto il mondo. Tu hai mai visto un paese fatto di due grandi catene montuose quasi perpendicolari l'una all'altra? Le Alpi sopra, questo arco, e poi gli Appennini che scendono nel Mediterraneo. Nessun paese ha due catene montuose messe in questo modo qua, che per di più poi entrano dentro nel mare e diventano un grande ponte dentro il mare Mediterraneo, lì in mezzo. L'Italia è una cosa unica, montagne e mare fatti in questo modo. Altro elemento unico, trovami un altro paese che ce l'ha, mettiamo, non so, parti dalle montagne della Sicilia, e quindi un grande vulcano, poi le prime propaggini in Calabria, gli Appennini, sali su fino alle Dolomiti, cioè suoli completamente diversi, ecosistemi completamente diversi. Questa è l'Italia, uno spettro di diversità straordinarie. Poi è un bel viaggio nel tempo, no? Quello che permettono di fare le montagne. Esattamente, perché poi questa diversità l'hanno capita anche i popoli anticamente, da migliaia di anni fa. Sono le montagne quindi che ci accompagneranno, ma ci saranno anche tanti ospiti, i grandi che hanno accettato di dare le risposte ai più piccoli che ci accompagneranno in questa puntata. Però iniziamo con una sorpresa, abbiamo il piacere infatti di avere con noi Carmen Pellegrino, che è una scrittrice e abbandonologa, nel senso che lei frequenta, scopre, racconta i paesi abbandonati nel nostro paese, e quindi abbiamo chiesto se in ogni puntata ci regala, come se fosse una favola, il racconto di uno di questi paesi. Quindi Carmen Pellegrino, Il traffico, e poi ancora qua con Terra in vista. C'era una volta un paesino con una sola abitante. Il paesino era Roscigno Vecchia, giù al sud, in Campania, e la sua ultima abitante si chiamava Dorina. Gli altri se ne erano andati via tutti, chi lontano, addirittura in America, chi nel paese nuovo, costruito qualche chilometro più in là. A partire dal 1960 Roscigno Vecchia fu abbandonato, perché era un paese instabile, la sua terra franava e spesso le case crollavano. Chi poté se ne andò. E se ne andarono tutti. Tutti tranne Dorina, che era appena tornata dal monastero. Da giovanissima, infatti, aveva preso i voti, convinta di poter diventare una suora. Poi cambiò idea e un giorno lasciò il monastero e tornò al suo paese. Solo che non c'era più nessuno, se ne erano già andati via tutti. Ma Dorina non si scoraggiò, decise di restare e restare da sola. Aveva la compagnia degli alberi, del vento, dei cani e dei gatti randagi. Le tolsero la corrente elettrica e poi anche l'acqua corrente, ma nemmeno allora si arrese. È rimasta lì per 50 anni, fino agli inizi del 2000, da sola. Una volta l'ho incontrata e le ho chiesto perché avesse lasciato il monastero. E lei mi ha risposto che il suo Dio lo incontrava più facilmente fra le montagne. Terra in vista. Eccoci qua, quindi pronti per andare alla scoperta dell'Italia, del nostro paese, in particolare oggi delle montagne, e lo facciamo attraverso i nostri ospiti convocati per dare risposta alle domande dei più piccoli. Domande tipo questa. Il Monte Bianco è più bianco degli altri monti? Bellissimo. Cominciamo il nostro viaggio dal fresco. Esatto. Ci sarebbe anche il Monte Rosa, chissà se è più rosa degli altri monti, però non è che possiamo fare una domanda per tutti sui colori. Esatto. Partiamo dal bianco, e per dare risposta a questa domanda abbiamo invitato un esperto. Diamo il benvenuto a Carlo Barbante, che è direttore dell'Istituto per la Dinamica per i Processi Ambientali del CNR e docente all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ciao Carlo, benvenuto a Terra in Vista. Ciao. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Lo conosci bene questo Monte Bianco, vero? Sì, lo conosciamo molto bene e in effetti, come avete detto, molto spesso le montagne prendono i nomi dai colori che assumono, dal Monte Rosa alla Croda Rossa nelle Dolomiti, proprio perché hanno questi bellissimi colori. Il Monte Bianco è visto da lontano come un'enorme macchia bianca, è quasi completamente coperto di neve, e da lì, fin dall'antichità, anche se ha assunto nomi diversi fino da circa 1000 anni, da quando si conosce un po' più in dettaglio, ha assunto nomi diversi, ma negli ultimi secoli è proprio conosciuto per il candore delle sue nevi. Certo, perché questo bianco che noi vediamo è neve, è ghiaccio, è un misto. Di fatto cosa ricopre il Monte Bianco? È ricoperto da dei ghiacciai che fluiscono dalla vetta fino alle valli, nella valle di Chamonix, e la maggior parte è ghiaccio che è lì da secoli, perché si accumula, il ghiaccio si forma perché la neve continua a cadere anno dopo anno, e via via accumulandosi si trasforma dapprima in neve molto dura, con la quale è difficile anche fare un pupazzo di neve, ma poi via via si trasforma addirittura in ghiaccio solido, ghiaccio blu, che rimane e vive di fatto, perché è una sostanza molto che scorre come un fiume. Se avessimo la possibilità di vedere un ghiacciaio e fare delle foto ogni giorno per 2 o 3 anni, vedremo veramente un fiume di ghiaccio scorrere dalla cima della montagna fino alle valli. Carlo, cosa vuol dire quando si dice che sulle montagne come il Monte Bianco ci sono le nevi perenni, il ghiaccio perenne? Vuol dire che sono eterni? Però ci dicono anche che si stanno sciogliendo, quindi non sono poi così perenni. Esattamente, perenne vuol dire che dovrebbe durare per sempre, ma il ghiacciaio è come un grande contenitore a cui posso aggiungere o sottrarre della neve. È chiaro che se sottraggo più neve di quella che ci metto, il ghiacciaio dopo un po' sparirà, ed è quello che sta un po' succedendo ai nostri ghiacciai delle Alpi, non solo al Monte Bianco. E addirittura abbiamo fatto degli studi assieme a dei colleghi francesi e abbiamo visto che alla fine di questo secolo, e quindi tra un'ottantina d'anni, molti dei ghiacciai delle Alpi, che sono a delle quote inferiori ai 3600 metri, andranno completamente a sparire. E tra questi purtroppo anche molti dei ghiacciai del Monte Bianco. Quindi sta come effetto dell'aumento di temperatura globale sta sciogliendosi, sta fondendosi molta più neve di quella che ne cade, quindi di fatto stiamo svuotando questo contenitore più rapidamente di quanto lo stiamo riempiendo. Dovremmo cambiare anche nome al Monte Bianco, che insomma, ci stavo pensando, sì, Monte Grigio. Forse sì, ma insomma sarà difficile nei prossimi 100 anni, no? Ma il nome è ben consolidato, ecco. Stavo pensando, Carlo, tu sei stato in Antartide, sei appena tornato dalla Groenlandia, quanti bianchi hai visto nella tua vita? Ma ne ho visti tanti. Se pensi che gli Inuit hanno oltre 50 modi diversi per descrivere la neve, dalla forma, dai grani, dalla densità, dal colore, noi siamo molto limitati, chiamiamo il Monte Bianco solamente bianco, ma potremmo dargli molte sfumature, ecco. Insomma, perché è proprio questo che poi è anche la bellezza delle nostre montagne. Il Monte Bianco ha un fascino anche emotivo, vero? Al di là dell'interesse scientifico, è una montagna bella. Vabbè, sì, è molto bella. È la montagna più alta dell'Europa centrale, se vogliamo, se non consideriamo l'Elbrus nel Caucaso, che insomma il Caucaso è in Europa, voglio dire, però dell'Europa centrale è senz'altro la montagna più alta, e è una montagna da leggenda perché ha fatto la storia dell'alpinismo, perché ha fatto anche la storia un po' dell'Europa, ed è un simbolo per tutti noi, quindi è senz'altro qualcosa che va al di là della neve e della montagna stessa. Grazie davvero a Carlo Barbante per averci fatto conoscere un po' meglio questo Monte Bianco. Ciao Carlo, buona estate. Ciao. Ciao anche a voi. Scendiamo a valle ora, lo facciamo con una delle storie di Telmo Pievani. Cosa ti suggerisce la montagna, Telmo? Beh, è stato detto proprio adesso nell'ultimo discorso di Carlo Barbante, la montagna, come montagne come il Monte Bianco, tutto sommato sono delle grandi barriere fisiche, no? Quindi separano, dividono gli animali, le piante, gli ambienti, e in questo modo generano diversità, ramificazioni, perché da una parte si parla una lingua, dall'altra si parla una lingua diversa, tradizioni differenti, dialetti e a volte anche le specie di piante e animali diverse, quindi le montagne dividono. Però se ci pensi, le montagne allo stesso tempo uniscono, come succede per quasi tutte le barriere fisiche, perché ci sono le vie di commercio, ci sono le vie migratorie, i passi, i valichi sono dei punti di contatto e di scambio nella storia dell'Europa, ma del mondo, da sempre. E poi perché i popoli della montagna condividono su un versante e sull'altro gli stesse difficoltà, no? Sostanzialmente, quindi si sentono imparentati. Le Alpi, per esempio, sono una grande barriera, ma non hanno mai impedito l'arrivo di invasori, di passaggi, di migranti. Pensa che Neanderthal e Sapiens addirittura già a quel tempo condividevano le stesse vallate alpine. E questo è proprio uno dei segreti della ricchezza e della diversità italiana: avere un territorio molto irregolare, pieno di montagne, di vallate chiuse, che quindi dividono, frammentano, e allo stesso tempo essere un luogo di passaggio, di popolazioni, di piante, animali e di esseri umani. Questo è il mix, è la ricetta magica che fa dell'Italia uno dei posti al mondo più ricchi di diversità biologica e culturale. Diversità biologica e culturale che diventa anche diversità artistica. È il momento dell'arte. Te la spiego io. Te la spiego io, la rubrica artistica di Terra in Vista, perché Telmo, l'Italia è luogo d'arte. Altro che, c'è l'imbarazzo della scelta, come facciamo? Faremo un viaggio, andremo a scoprire degli artisti, magari meno noti, ma soprattutto vi proporremo delle attività artistiche per sperimentare nuove tecniche, e tutto ciò lo facciamo insieme a Serena Riglietti, che è un'illustratrice, la mamma italiana di Harry Potter, è docente di disegno e illustrazione presso l'Accademia di Belle Arti di Urbino ed è art director di due bellissimi strumenti per viaggiare, che sono le divertimappe e una nuova app che si chiama Map2Go. Ciao Serena, benvenuta a Terra in Vista. Ciao. Ciao, grazie. Partiamo dalla montagna in questa prima tappa. Quale artista hai scelto? Allora, io ho pensato di parlarvi di Giuseppe Penone. Chi è? Giuseppe Penone è uno dei massimi rappresentanti dell'arte povera, che è un movimento artistico che nasce intorno agli anni 60 in Italia. Significa che gli artisti scelgono di utilizzare dei materiali che possono considerarsi poveri, come il legno, la terra, i vegetali o addirittura gli stracci e anche gli scarti industriali. Ok, ci puoi fare un esempio di una delle sue opere? Sì, una delle sue opere più importanti secondo me si intitola Alpi Marittime ed è una sorta di work in progress, perché lui realizza un calco della sua mano con il bronzo e ne circonda un albero giovane. Praticamente quest'opera viene documentata nel tempo, perché man mano che questo albero cresce entra in relazione con questa mano che ne stringe una parte, che quindi a sua volta influisce sulla crescita dell'albero. Un'opera che evolve. Un'altra bella. Invece un'opera sua che mi ha colpito veramente quando ero molto giovane, l'ho vista in una mostra, mi è piaciuta tantissimo, era un grandissimo frottage, lui ne ha realizzati tanti, ma questo in particolare è il frottage realizzato sulla corteccia di un albero. Ed è quello che vorrei suggerire ai ragazzi. Infatti, ok, che cos'è un frottage? Allora, è una tecnica che permette di riprodurre la superficie delle cose. Sì. Cioè bisogna utilizzare chiaramente delle superfici non lisce. Si realizza appoggiando un foglio di carta sottile oppure una stoffa su queste superfici e poi dopo con della grafite ci si strofina sopra e quello che è sotto emerge sulla superficie della carta. Uh-huh. Sicuramente i ragazzi a scuola l'hanno fatta con le monetine, io mi ricordo con, non so, tipo le 10 lire così, okay. Però vengono fuori delle cose molto piccole. Invece io suggerisco di fare una vera e propria opera da portarsi a casa e da appendere al muro, quindi una bella passeggiata nel bosco con un foglio di carta leggero, tipo anche carta velina, anche un po' stropicciata prima con le mani, okay. E un po' di scotch, di nastro adesivo e alcuni pezzi di graffite, anche dei pastelli a cera, olio, anche colorati. Si trova un bel tronco di albero grande, si attacca questo foglio di carta circondandolo e fissandolo con lo scotch e poi dopo si lavora con questi carboncini, con questi pastelli, diciamo, esercitando anche pressioni diverse. A me piace anche suggerire di appenderlo a un muro con degli spillini molto piccoli messi in alto che facciano scendere l'opera seguendo appunto un andamento abbastanza naturale, certo. Spontaneo. Fantastico. Sia se si utilizza la carta che anche se si utilizza la stoffa. Ok, quindi insomma ti costruisci il tuo bosco da camera volendo. Esatto. Serena, raccontaci proprio in pochi secondi che cos'è Map2Go? Map2Go è un'app per smartphone con la quale chi la scarica può ricostruirsi un percorso turistico, sì. Anche in base al tempo che ha a disposizione e ai propri gusti. Ci tengo molto a dire che è completamente illustrata da Veronica Pozzi e io ho fatto questa scelta perché secondo me con questi disegni si rappresenta veramente la bellezza dell'Italia, che è l'icona della bellezza oltre che del turismo. Assolutamente. Un grazie a Serena Riletti, ci ritroviamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao, grazie. Ciao, ciao. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS... E se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Dal 9 luglio, tutte le domeniche, alle 19:10, su Radio 24. Terra in vista. Eccoci qua ancora con Terra in vista, l'Italia spiegata a mio figlio Federico Tadia, Telmo Pievani, ma soprattutto le domande dei più piccoli. Domande come questa. Dove finiscono gli appennini? La semplicità delle domande dei nostri ascoltatori, no? Perché si va a scuola, si studiano le montagne, le Alpi, gli Appennini. E poi però dove iniziano? Dove cominciano? Dove finiscono? C'è un cartello qui, iniziano gli Appennini. Ma andiamo alla scoperta degli Appennini e lo facciamo con un geologo. Diamo il benvenuto ad Alessandro Amato, dirigente di ricerca di NGV e autore del libro Sotto i nostri piedi, storie di terremoti, scienziati e ciarlatani. Ciao Alessandro, benvenuto a Terra in Vista. Ciao. Buongiorno a voi, ciao, buongiorno. Allora Alessandro, gli Appennini, c'è un inizio e c'è una fine? Dunque, allora, un inizio e una fine geografica, forse sì, possiamo dire che iniziano più o meno in Liguria, Alta Toscana, dove c'è il confine con le Alpi, e poi seguono tutta l'asse della penisola, arrivano fino in Calabria. Ecco, geograficamente li possiamo localizzare in questo modo. Geologicamente invece la cosa è un po' più complessa, infatti la domanda non è facile per niente, è una domanda complicata. Ma sono montagne giovani, montagne vecchie, quanto tempo hanno? Sono montagne giovani, infatti sono attive e per questo motivo ci sono i terremoti. Diciamo l'età iniziale sono forse 30 milioni di anni, secondo poi le zone, quelle più tirreniche sono più antiche, quelle più adriatiche, quindi verso il mare Adriatico sono più recenti, ma comunque insomma sono parecchi milioni di anni, ma sono ancora attivi oggi e sono sottoposti a dei processi di deformazione che fanno sì che ci sono i terremoti, insomma. Infatti, perché comunque studiare i terremoti significa studiare gli Appennini e viceversa. Sono così in movimento proprio perché sono così giovani, sono adolescenti, insomma, sono da bravi adolescenti, comunque sono un po' ribelli, un po' trasgressive, difficilmente controllabili. Certo, esattamente, sono più giovani delle Alpi e più giovani delle catene montuose, non so, del nord Europa, che sono state magari attive 200 milioni di anni fa, ma oggi sono stabili. Fantastico. Ricordiamo che il problema qual è? C'è l'Africa che spinge da sotto. Ma questo sì, dunque c'è questa mega placca, questa grande placca dell'Africa che si muove verso nord, verso la parte europea, anzi euroasiatica, perché quello è tutto un enorme placcona, però in mezzo poi ci sono delle altre micro placche, delle piccole zolle, per esempio quella adriatica. L'Adriatica, tutta la parte che sta sotto il mare Adriatico, sotto la pianura padana, sotto la Puglia, e poi sotto i Balcani, dall'altro lato è una microplacca, è un pezzo di Africa praticamente, e questo pezzo di Africa, questa placca adriatica ruota, si sposta, spinge sotto le Alpi, nella parte del Friuli, del Veneto, poi ruota in senso antiorario e quindi determina questa rotazione dei movimenti sulle serie rocciose che si deformano, quindi terremoti dalla parte appenninica, terremoti dalla parte balcanica. Alessandro, senti, tu sei responsabile dell'avviso degli tsunami, cioè i terremoti in mare che producono le grandi onde, quindi se dovesse succedere sei tu che ci avviserai? Ci chiami a casa uno a uno? Sì, ecco, ci proviamo, sì, stiamo facendo questa da alcuni mesi, questa ormai non è più una sperimentazione perché siamo, diciamo, operativi, abbiamo questo compito di monitorare tutti i grandi terremoti del Mediterraneo e ci sono delle zone che hanno dei grandi terremoti, li hanno avuti in passato, come non so, tutto l'arco ellenico, l'isola di Creta o più a est Cipro oppure il Nord Africa, dove si possono generare dei grandi terremoti vicino al mare che possono indurre quindi delle onde di maremoto, degli tsunami. Quando c'è un terremoto si ha qualche minuto per diramare un'allerta prima che le onde arrivino in Italia. Solo qualche minuto, vabbè, mi raccomando. Insomma, sì. Tenete i cellulari accesi. Alessandro, un'ultima domanda: ma com'è l'Italia vista sotto i nostri piedi? C'è più interessante, più affascinante, così diversa? È un altro paese rispetto a quello che si vede da sopra i nostri piedi? Beh, sì, è molto affascinante. Se ne sa molto poco perché informazioni dirette ne abbiamo solo per i primi chilometri, che sono quindi proprio la parte più pellicolare, e non li abbiamo magari sulle faglie attive, nelle zone che ci interesserebbe studiare di più, nei vulcani. Sì, è molto affascinante perché sappiamo che accadono dei processi importanti, imponenti, questi moti delle placche, queste faglie che si spostano e che si muovono, ma diciamo purtroppo, diciamo, noi abbiamo un'immagine molto, molto sfocata, no? Vediamo solo quello che sono i segnali indiretti, no? Le onde sismiche, dei gas in superficie, quindi è un mondo sicuramente molto bello ed è un po' uguale dappertutto, insomma, sotto gli Appennini, come magari sotto le montagne della Nuova Zelanda, che stanno dall'altra parte del mondo, ma insomma più o meno a quelle profondità dei terremoti, dei magmi, così, diciamo, è tutto molto simile, quindi questo è pure utile, perché si, studiando una catena montuosa se ne, magari se ne capisce anche un'altra, insomma. Un grazie davvero ad Alessandro Amato. Ciao e buona estate. Ciao. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. A voi. Ciao. E dopo aver viaggiato per gli Appennini, viaggiamo con Telmo, Telmo Pievani. Quale storia hai per noi? Beh, abbiamo parlato di come nascono, si evolvono le montagne. Questo è un grande tema che gli scienziati cercano di affrontare da circa 3 secoli. E per molto tempo c'è stata una grande diatriba, una delle grandi controversie scientifiche di tutti i tempi. C'erano i plutonisti da una parte, li hai mai sentiti? No. Plutone, quindi il dio degli inferi. Ed erano quelli, i geologi, i primi geologi, convinti che le montagne nascessero perché spinte da un grande fuoco infernale sotterraneo. Questo magma che sotto, caldissimo, spinge, perché pensavano, e avevano ragione, che il centro della Terra fosse molto caldo e fluido e quindi spingesse verso la crosta. Dall'altra parte c'erano i Nettunisti, invece Nettuno, il dio del mare, e pensavano che le montagne e tutti i grandi fenomeni geologici fossero dovuti all'acqua invece non al fuoco, quindi sedimentazione, erosione, poi costruzione appunto delle montagne e di tutta la superficie terrestre. Ora, visto dall'oggi, noi sappiamo che avevano un po' più ragione i plutonisti, in effetti, no? I vulcani sono magma, eruttano il magma, in effetti c'è tanto caldo e tanto fuoco sotto, però avevano un po' ragione anche i Nettunisti, perché l'erosione pure è molto importante. Quindi, come vedi, nella scienza spesso succede che nelle grandi controversie anche quelli che apparentemente avevano torto, un pochino di giusto l'avevano visto. Questa è la scienza, questa è la scienza che ci piace raccontare. Adesso invece è il momento di Fringuelli d'Italia. Fringuelli d'Italia. Eh sì, con Fringuelli d'Italia, mi piace questo titolo, tra l'altro, Telmo. Darwiniano. Darwiniano. Faremo un viaggio per cercare di conoscere alcune specie italiane, tipicamente italiane, che vivono negli ambienti e nelle situazioni che andremo a raccontare. Come anche già... quelle che non ti aspetteresti. Bravo, esatto, perché la natura e la biodiversità è una continua sorpresa. Anche quest'anno con gli animali ci accompagnerà la nostra esperta. Diamo quindi il benvenuto a Caterina Spiezio, responsabile settore ricerca e conservazione del Parco Natura Viva di Bussolengo, parconaturaviva.it, il sito di riferimento. Ciao Caterina, ben ritrovata. Ciao. Ciao, ben ritrovati, buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo in montagna. Quale animale, simbolo hai scelto per parlare appunto dell'Italia vista dal punto di vista delle sue montagne? Pensavo di parlare di un animaletto che tendenzialmente non ci aspettiamo di vedere in montagna, che è lo scoiattolo rosso, perché a volte si può trovare anche nei parchi cittadini, però può arrivare fino a 3000 metri di altezza, quindi direi che vive benissimo nelle conifere, nelle foreste, e quindi parliamo proprio di lui nello specifico. I motivi sono diversi, da un lato perché purtroppo sta scomparendo dall'Italia, così come è praticamente scomparso dalla Gran Bretagna, perché viene pian pianino soppiantato dallo scoiattolo grigio. Lo scoiattolo grigio, che è un pochino più grande, diciamo, dello scoiattolo rosso, è un pochino più forte nella competizione, semplicemente perché è meno specialista per quanto riguarda ciò che mangia, un pochino più opportunista dello scoiattolo rosso. Quindi lo scoiattolo rosso viene messo sempre un pochino più in disparte, ma è il nativo dell'Italia e dell'Europa, per cui è diciamo l'individuo che dovrebbe essere, la specie che dovrebbe essere presente rispetto allo scoiattolo grigio. E l'altro secondo motivo per cui diciamo ho scelto questo individuo in particolar modo è un po' per la modalità che hanno loro di preservare e di aiutarci a salvare la natura. Infatti la deforestazione è il primo rischio per quanto riguarda il loro ambiente, la problematica anche della loro scomparsa. Sì. Ma quello che fanno è accumulare i semi che trovano in abbondanza nelle foreste quando e nel periodo in cui ci sono, per poi poterli tirare fuori, diciamo li nascondono, li accumulano, per poterli poi ritirare fuori nel periodo in cui i semi di fatto non ci sono. Questo da un lato aiuta loro a sopravvivere, perché non vanno in letargo, altro aspetto caratteristico, quindi vivono in aree anche molto fredde senza andare in letargo, perché hanno bisogno di cibo sempre, sì, durante tutto l'arco dell'anno. E quando si dimenticano di aver nascosto dei semini qua e là, questi semini poi daranno a loro volta origine a delle piante e quindi diciamo, a riforestare le foreste che in questo momento stanno perdendo un pochino la loro, certo, la loro, diciamo, distribuzione originaria. Caterina, però non ho capito, lo scoiattolo strano è quello che è in città o lo scoiattolo strano è quello che è nato in vacanza in montagna? O entrambi sono in un loro habitat naturale? Chi dei due ha sbagliato strada? È quello grigio o quello strano? Quello grigio e quello strano, sì, perché di fatto lo scoiattolo rosso può vivere da zero, diciamo, quindi nelle città fino a 3.000 metri di altezza. Ah, quindi proprio si adatta. Sì. Abbiamo fatto amicizia oggi con lo scoiattolo. Grazie davvero a Caterina Spiezio. L'appuntamento alla prossima puntata. Vi ricordo parconaturaviva.it. Ciao Caterina. Ciao. Ciao, grazie a voi. Noi adesso ci fermiamo il traffico, poi ancora qua con Terra in Vista. Terra in Vista. Eccoci qua, è il momento della terza domanda dedicata alle montagne. Ascoltiamola insieme. I vulcani sono montagne arrabbiate? In effetti. Molto arrabbiate certe volte. Non è male come definizione. Per capire se i vulcani sono montagne arrabbiate, diamo il benvenuto a una vulcanologa. Si chiama Sara Barsotti e lavora presso l'Osservatorio per la pericolosità dell'Ufficio Meteo Islandese. Ciao Sara. Ciao. Ciao. Allora Sara, ti è piaciuta questa definizione? I vulcani sono montagne intanto? Diciamo che alcune montagne hanno origine vulcanica, sì, questo sì. Okay. Quindi diciamo che possiamo chiamarle montagne. E la domanda è interessante, se sono montagne arrabbiate. In verità, per quello che è la mia esperienza, non direi arrabbiate, direi che i vulcani sono più forse montagne brontolone. Okay. E, se vogliamo, a tratti nervosette anche. Però non lo so, spesso mi piace vederli come... quello che sono, un contesto ambientale che comunque da sempre, nei secoli, ha incoraggiato la gente a vivere vicino a queste montagne, no? Questo perché in effetti si sa che la terra intorno ai vulcani è fertile, è ricca di minerali, di sostanze nutritive, tanti dei materiali che sono eruttati sono spesso usati dall'uomo per gli usi più svariati. E infine, nell'epoca moderna non dimentichiamoci che tutta l'energia che è disponibile dall'attività geotermale associata a zone vulcaniche può essere usata per scaldare l'acqua, per produrre energia. Sara, senti, l'Islanda e l'Italia sono imparentate da questo punto di vista, sono due paesi con tantissimi vulcani, no? Anche l'Italia per ragioni diverse ne ha tanti, però anche diversi tra di loro, no? Perché sono così tanti e così diversi i vulcani italiani? Se partiamo dall'Islanda, diciamo che il vulcanismo islandese è dovuto essenzialmente alla posizione dell'Islanda, che è esattamente lungo la dorsale medio-atlantica, quindi quella fessura che è in effetti sul fondo dell'Oceano Atlantico e che è causata da un movimento divergente delle placche, quella atlantica e quella euroasiatica. Sostanzialmente le placche qui si stanno allontanando l'una dall'altra. Sì. E quindi la crosta sostanzialmente si spacca in due e del nuovo materiale magmatico tutte le volte viene messo. In Italia invece il contrario, no? Si comprimono. L'Italia comunque sia è scenario di chiaramente di movimento di placche, sono però placche che in questa zona sono convergenti, quindi c'è la placca africana che dal sud spinge in verità verso nord, inizia verso nord-est, causando la microplacca adriatica verso nord-est e il bacino tirrenico che contemporaneamente si sta espandendo, assottigliando la crosta. Sara, avrei un'ultima domanda. Quanto tempo ci hai messo a imparare i nomi dei vulcani islandesi? Beh, sono ancora in fase di apprendimento, però di sicuro Eyjafjallajökull l'ho imparato abbastanza bene. Che credo sia veramente test d'esame saper pronunciare. È uno dei più difficili, in effetti. Siamo stati un po' sfortunati negli ultimi anni. Però insomma. Grazie davvero, grazie per essere stata con noi e complimenti per il tuo lavoro. A presto. Sì, grazie a voi. Ciao, buona lunga estate. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Telmo, hai anche una storia sui vulcani? Beh, i vulcani hanno tantissime storie, i vulcani italiani, soprattutto perché noi pensiamo sempre allo Stromboli, all'Etna, perché sono attivi in modo persistente, no? Li vediamo. Oppure al Vesuvio, dove c'è l'osservatorio vulcanologico, tra l'altro più antico al mondo e che ha eruttato anche nel 906, nel 944. Poi ci sono i Campi Flegrei, che la cui attività sta aumentando, tra l'altro sono un campo vulcanico vastissimo. E poi le isole Pantelleria, Vulcano, Lipari, Ischia, sono tutte isole vulcaniche. Però ce n'è uno di vulcano italiano che non si ricorda mai, ma che è stranissimo, perché nel 1831 ha prodotto una isola nuova, quindi un pezzo d'Italia che è sopravvissuto per circa 6 mesi, è l'isola Ferdinandea nel canale di Sicilia. Ci fu un'eruzione meravigliosa, il fuoco cominciò a uscire dall'acqua, il mare ribolliva, i pesci morivano, alla fine venne fuori piano piano un'isola che arrivò fino a 60 metri, tutta nera, larga 300 metri, con questa battaglia tra il fuoco e il mare che venne descritta poi dai naviganti, dagli osservatori di quegli anni. Ci fu una contesa territoriale perché volevano appropriarsene anche gli francesi e gli inglesi, alla fine rimase italiana. Però è scomparsa subito, perché poi, finita l'eruzione alla fine di agosto del 31, sì, il mare, il vento hanno ripreso il sopravvento e verso Natale del 31 già non c'era più l'isola. Viene chiamata isola effimera, che è una cosa molto bella. Un pezzo d'Italia che è venuto fuori e poi si è inabissato di nuovo. Sembra quasi una leggenda, no? Invece, esatto. Invece questa è scienza. E a proposito di scienza, è il momento degli esperimenti. Eppur si muove. C'è anche la scienza terra in vista, l'Italia terra anche di scienziati, quindi ne andremo a conoscere alcuni e non solo, vi daremo anche la possibilità di sperimentare quello che questi scienziati hanno inventato, ideato o utilizzato. E quando si parla di scienza ovviamente c'è lo scienziologo e divulgatore scientifico Andrea Vico dell'associazione To Science. Ciao Andrea! Buongiorno a tutti, buona estate. Allora Telmo, quale una storia, uno scienziato per puntata e poi andremo a scoprire quale esperimento fare. Quale allora, ci oggi propone? Sperimentiamo partendo da una figura di uno scienziato molto poco noto che si chiamava Alessandro Kruto ed è, lo sai, il vero inventore della lampadina. Kruto era appassionatissimo di scienza, era povero di famiglia ed era appassionato anche come inventore, insomma lavorava sulla grafite, lui voleva fare i diamanti, voleva fare i diamanti artificiali da regalare alla sua mamma. In realtà non ci riuscirà mai, però in questa sua ricerca a un certo punto va a sentire una conferenza del grande Galileo Ferraris a Torino, che parlava di Edison e delle ricerche di Edison appunto sulla lampadina. Raccontava di come Edison cercava questo filamento, a quel tempo lui, Edison, pensava di bambù carbonizzato per renderlo incandescente e fare la lampadina. E qui si uniscono due fili della storia, perché lui lavorava invece sulla grafite e sul carbonio e inventa un filamento molto più efficiente che, diventando incandescente, dava origine a una lampadina che durava 10 volte di più di quella di Edison. Tant'è che la Ville Lumière di Parigi, le grandi capitali europee, usarono la lampadina di Kruto e non la lampadina di Edison. Quindi, tutto sommato, il vero inventore della lampadina è stato Kruto, anche se poi l'ha annunciata e brevettata 5 mesi dopo l'americano. Così nasce la lampadina, adesso andiamo a sperimentare tutto ciò. Come? Andrea, cosa hai preparato? Andiamo a conoscere la differenza che c'è in casa nelle lampadine che normalmente abbiamo in camera, in salotto, in cucina. Sì. Quindi serve innanzitutto, passando in un ferramenta piuttosto che un negozio di bricolage, si compra per 10-12 euro un wattmetro. Io, attraverso un abat-jour, una lampada da tavolo, devo procurarmi tutte le lampadine che trovo in casa e una alla volta cominciare ad avvitarle e, accendendo la lampadina e avendo il wattmetro in mezzo, capire quanta energia sta passando. Avremo le lampadine quelle vecchia maniera, cioè incandescenza, che sono le pronipoti delle lampadine di Kruto e di Edison, dove c'è il filamento che diventa incandescente, tant'è che se lo tocco sento subito caldo, anzi mi scotto facilmente il polpastrello. Poi abbiamo le lampadine che abbiamo imparato a conoscere ormai da una trentina d'anni, quelle a fluorescenza compatta, che sono dei piccoli neon. I gas sono liberi nel tubicino di vetro tutto attorcigliato, l'energia passa, gli elettroni passano e scatenano altri, cioè gli elettroni degli altri gas contenuti nella lampadina, e viene fuori della luce. E vedremo nel wattmetro che l'energia consumata comincia a essere già meno della metà dell'energia necessaria per lampadina incandescenza. Terzo tentativo, le lampadine a LED, che non hanno un filamento, non c'è una luce scaturita da qualche meccanismo di questo genere, ma è una sostanza, una piastrina, un chip che, ricevendo gli elettroni in ingresso, anche lì diventa un piccolo biliardino e saltano fuori dei fotoni che danno luce. Una luce fredda, il LED consuma anche 9 volte meno di una vecchia lampadina incandescente, ma soprattutto è assolutamente riciclabile perché è praticamente quasi tutto plastica. Perfetto, grazie ad Andrea Vico, ciao Andrea, alla prossima! A presto, alla prossima! Ciao! Questo è Terra in Vista, l'Italia spiegata a mio figlio. Un grazie ad Andrea Spenuso in redazione, un grazie a tutti i tecnici che hanno ruotato, Andrea Roccabella, Peter Bescapè, Paolino Corleone, un grazie a Telmo Pievani, mio compagno di viaggi in questa puntata interamente dedicata alla montagna. Telmo, cosa abbiamo imparato oggi? Ma direi che abbiamo imparato che l'Italia è piena di montagne e di vulcani perché la Terra, per fortuna, è un pianeta vivo e in movimento. È la nostra Terra in Vista. Alla prossima puntata.